Letture di Radio 24. A Genova nasce la prima esposizione permanente dedicata alla spazzatura. Tra installazioni artistiche e laboratori, un team di esperti insegnerà anche l'arte del riciclo, arte di cui l'intera umanità non potrà fare a meno in futuro. Un immenso immondezzosauro incomberà terrorizzante all'ingresso per rendere perfettamente le dimensioni e la minaccia dei 550 kg di rifiuto pro capite l'anno. Sarà il simbolo del Museo della Rumenta, il primo del genere in Italia che sarà allestito come memento, punto educativo e laboratorio di ricerca aperto a tutte le più nuove scoperte in materia, ai magazzini dell'abbondanza. Una scelta quanto mai significativa, dato che il complesso fu costruito nell'area portuale dalla Repubblica di Genova per immagazzinare i beni nei periodi di abbondanza per poi distribuirli nei periodi di carestia tramite il Magistrato dell'Abbondanza costituito nel 1565. L'idea iniziale del Museo della Rumenta è di Renzo Piano, che ci aveva pensato quando esplose lo scandalo dei rifiuti di Napoli. Poi è stata entusiasticamente ripresa dalla sindaco Marta Vincenzi, tanto per confermare che a Genova non si butta via nulla, e diventerà realtà tra giugno e novembre, giusto in occasione del Festival della Scienza, grazie all'assessore all'educazione ambientale Pinuccia Montanari. È un modo di riflettere sulla dimensione antropologica dei rifiuti come espressione della società dei consumi, per mettere in evidenza le contraddizioni del nostro stile di vita. Ovvero, probabilmente siamo quello che mangiamo, ma veniamo raccontati da quello che buttiamo via. Il museo, il cui progetto è curato dal coordinatore Mario Santi, urbanista ed esperto di gestione dei rifiuti, sarà interattivo e articolato su 4 livelli. Il primo conterrà un laboratorio che illustrerà la storia del rifiuto e di come diventano rifiuto le diverse frazioni merceologiche. Si pensa anche a una sorta di rappresentazione, un video illustrativo ma con il fascino di una narrazione teatrale. Il testo sarà affidato a un autore in grado di fare del racconto un momento altamente educativo. Qualcuno propone il genovese Maurizio Crozza, dalla vena irridente e divertita, ma c'è anche chi fa il nome di Marco Paolini, o pensa allo scrittore che ha già fatto della spazzatura e dello scandalo napoletano argomento di intervento televisivo, ovvero Roberto Saviano, appena laureato ad honorem proprio a Genova. La seconda sezione, come spiega Santi, ospiterà opere d'arte realizzate trasformando i rifiuti sia in sculture sia in oggetti eleganti d'uso, come i fari d'auto mutati in raffinate abat-jour. Sarà bandito un concorso di idee per l'atelier di Dumping Art. Il terzo exhibit sarà dedicato al riciclo di carta, plastica, organico secco e vetro. La quarta sezione sarà dedicata alla green economy, ovvero all'educazione ambientale. Altrimenti, se andiamo avanti così, nel 2020 ci vorranno 2 pianeti per smaltire la spazzatura, sottolinea l'assessore, che nel comitato scientifico ha voluto Enzo Favoino, Alessio Ciacci, Roberto Cavallo, Guido Viale. Del resto, lo diceva anche De André, che dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Anche la spazzatura merita un museo, di Alessandra Pieracci, dalla stampa di lunedì 31 gennaio. Letture di Radio 24. In Egitto e Tunisia fanno intravedere la possibilità di una vera primavera per i giovani musulmani. Guardando da Occidente, osserva sul Corriere della Sera Antonio Puri Purini, non bisogna avere paura di questa fase, ma domandarsi se i recenti eventi stiano chiudendo una fase nella storia del mondo arabo per proiettarsi verso una nuova stagione nei rapporti con l'Europa. Non bisogna avere paura della parola primavera quando si affrontano gli eventi tunisini ed egiziani. Meglio domandarsi invece se gli eventi della sponda meridionale del Mediterraneo dischiudano una fase nuova nella storia del mondo arabo, aprano una diversa stagione di rapporti con l'Europa o siano fenomeni isolati destinati ad essere riassorbiti dallo statico clientelismo e dalla tradizione autocratica di quella realtà? Una risposta corretta a questo interrogativo è cruciale. Per gli europei, per i musulmani. L'Europa ama utilizzare iperboli nel reagire di fronte a grandi sconvolgimenti sociali e politici alle proprie frontiere, dalla rivolta cecoslovacca del 1968 alla caduta del muro di Berlino. Questi sono sempre stati accolti con speranza e sollievo. Dopotutto, dove si manifestava la libertà, si rafforzava anche l'Europa. Nulla di simile è avvenuto di fronte alla rivoluzione tunisina e ai disordini in Egitto e nello Yemen. L'Europa è stata accolta di sorpresa, anzi ha impiegato del tempo ad accorgersi che questa volta la ribellione aveva radici e ragioni profonde. L'esitazione si spiega. Gli interrogativi sulla possibile evoluzione delle società musulmane non fanno parte del bagaglio programmatico dell'Unione Europea verso i paesi della sponda sud del Mediterraneo. All'Europa interessava la stabilità, la sicurezza energetica, l'immigrazione clandestina, la lotta contro il terrorismo, il partenariato economico. Il resto, compresa la libertà e la dignità umana, passava in secondo piano. Veniva delegato a fondazioni e centri di ricerca. La contrazione generale degli studi islamici ha contribuito anch'essa a indebolire strumenti conoscitivi importanti di fronte alla prevalenza degli obiettivi economici e alla preoccupazione per la diffusione del fondamentalismo islamico. L'atteggiamento dei governi europei aveva una logica, ma il prezzo pagato è stato alto. L'Europa appare improvvisamente impreparata ad approfondire il rapporto tra democrazia e mondo musulmano, e ipnotizzata da autocrati capaci però di trasmettere sicurezza e affidabilità. Adesso gli errori commessi, l'approccio mercantile e la mancanza di visione politica vengono al pettine. Gli Stati europei non sanno rispondere al quesito se gli sconvolgimenti rappresentino o meno l'inizio di una stagione politica diversa. Una vera e propria primavera, appunto. Mancano gli strumenti per capire una realtà pur geograficamente così vicina. L'istinto di conservazione, la sicurezza delle strade già tracciate, fa rimpiangere autocrati come Mubarak e Ben Ali. Induce addirittura l'Italia a compiere l'errore di additare come esempio il modello di stabilità del colonnello Gheddafi. L'osservazione di questi eventi fa capire che siamo di fronte a qualcosa di complesso, diverso, imprevisto. Dopotutto, gli eventi tunisini ed egiziani hanno portato alla luce schemi inattesi, aspettative di gente normale, stufa ad essere considerata come un docile gregge. Colpisce che sono tutti giovanissimi e per di più padroni di internet. La verità è che la gente, improvvisamente e quando meno se lo aspetta, si indigna se chi governa passa il segno della decenza e della dignità. Questo avviene sotto qualunque latitudine e longitudine. La primavera viene associata alla spontaneità e al vigore. Ebbene, questi tratti sono ben manifesti negli eventi tunisini ed egiziani. La televisione ci ha mostrato immagini di persone comuni esasperate dalle vessazioni quotidiane, desiderose di un miglioramento delle condizioni di vita. Non si nascondono dietro il conflitto israelo-palestinese. Non bruciano bandiere americane. Proclamano il proprio buon diritto all'istruzione. Dalla storia si impara molto, a condizione di rendersi conto che essa si manifesta ogni volta in maniera diversa e imprevedibile. Per queste ragioni non è fuori luogo parlare di una primavera politica e sociale alle nostre frontiere meridionali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Se quella dei giovani musulmani diventa una nuova primavera, di Antonio Puri Purini, dal Corriere della Sera di sabato 29 gennaio. È come l'allarme smog in pianura padana, arriva puntuale alla fine di gennaio. Una tassa, come il canone RAI, una legge onnivora che permette a deputati e senatori di digerire senza dibattito condoni, dilazioni ed elargizioni non meglio specificate. Così Gianna Fregonara sul Corriere della Sera definisce il decreto mille proroghe, un calderone di emendamenti e controemendamenti da cui rispunta, guarda caso, un nuovo condono. Le proroghe è come l'allarme smog nella pianura padana. Arriva puntuale alla fine di gennaio. È come il canone RAI, una tassa. Una tassa sul Parlamento. Una legge onnivora che permette a deputati e senatori di digerire, senza dibattito, condoni, dilazioni, elargizioni non meglio specificate. Dovrebbe essere un provvedimento tecnico per correggere le incongruenze del bilancio, alcuni errori della fretta. Diventa un calderone nel quale i parlamentari si sentono autorizzati a buttare richieste, proposte, di spesa generalmente, di ogni genere, sperando che tra le mille righe finiscano per essere approvati i loro personalissimi e spesso poco pubblicizzabili emendamenti. Prendete l'ultimo decreto. Oltre 1.500 emendamenti che da oggi dovrebbero essere sfoltiti fino a diventare qualche centinaio. Spunta la richiesta di rinvio per le multe sulle quote latte, la proposta di ripianare i debiti della Scala e dell'Arena di Verona e, immancabile, il condono edilizio, sul quale lavora con un professionismo degno di miglior causa, è sempre stato bocciato, tra l'altro, un gruppo di senatori del PDL guidati dal campano Carlo Sarro, che insiste nel volerlo estendere per la sua regione. La richiesta di proroga del provvedimento del 2003 l'hanno presentata 2 anni fa e l'anno scorso nel mille proroghe, poi come emendamento alla manovra e ora di nuovo. Finora senza esito, ma ogni volta con una richiesta in più. Per chi ha operato in aree protette, per chi ha fatto già domanda ed è stata respinta e per chi si è dimenticato di farla in tutti questi anni. Tutto molto italiano, direte voi. Certo. E forse in questo momento di grande incertezza e di difficoltà istituzionale, con il rischio di tentazioni populiste, occuparsi dei vizi del mille proroghe, con questo nome che altro aspettarsi, può apparire riduttivo, addirittura un po' di nicchia. Ma il prestigio del Parlamento passa anche di qui, non solo dalla Giunta per le autorizzazioni o dalle grandi riforme di sistema. Se a non diffondere l'autorevolezza del Parlamento sono per primi gli stessi parlamentari, non tutti, d'accordo, come pretendere il rispetto altrui? È una domanda che forse nel palazzo dovrebbero farsi più spesso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Nel calderone del mille proroghe ora rispunta un nuovo condono» di Gianna Fregonara, pubblicato dal Corriere della Sera del 1 febbraio.